vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Ma avete mai lavorato? Ce vado io, ma ce non avete tu mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sì, io voglio spezzare una lancia a favore dei cruciani. Qua tutti fanno gli splendidi, c'ho i 200.000, non ho i 200.000. Dobbiamo fissare un termine. Il termine ultimo, come il bando di concorso, scade in una tale data. Poi chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, basta. Ma il figlio di Parenzo, no? Chiamiamolo come il cane lì che gli volete far fare la festa di compleanno, no? Dildo Parenzo, sembra pure mezzo ebraico, dai, eccezionale, no? Non credo sarà questa la soluzione finale, eh? Nella cinquina non c'è dildo, no? Nella cinquina non c'è cinquina. Tu ieri mi hai detto cinquina, ci sono 5-6 nomi in ballo. No, ma io non è che ho rivelato la cosa, ho detto solo che ci sono 5-6 nomi in ballo. Non ho rivelato nulla. Ma sembra avete il mistero della fede. No, ci sono delle cose che sono, come dire, familiari, no? Da tradizione. Ma ho capito, ma non ho detto nulla. Possono sembrare strane, ma sono così. Domani alle 10. Ecco qua, abbiamo una data. Ci sarà questa festa a casa con un po' di amici e ovviamente tutti i parenti, un po' di intimità, e faremo questa cerimonia che nel mondo ebraico è molto conosciuta. Si chiama circoncisione del Brit Milà in ebraico, cioè del patto. Ma oggi ho letto su un giornale non di destra, un giornale online, che si è aperto un dibattito: il pene circonciso è davvero più igienico? Questa è una questione che è stata posta seriamente. I siti possono dire quello che vogliono. OMS, no, che siti, è il Post, una cosa seria, un grande Post dibattito di Luca Soffri, magnifico. Però l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, lo ha già detto più volte. Sì, no, ma questo l'hai ripetuto. No, ma non io, i medici lo dicono. Però se c'è una discussione aperta, c'è da aprire una discussione sul fatto che qua uno dice piove, se piove vuol dire che c'è dell'acqua, non è che c'è da discutere. Non è che tutto quello che dici tu è oro colato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi voglio dire, più di quello non c'è nient'altro. Vabbè, se lo dici tu. Poi dopo può intervenire uno, Mauro D'Amato, un altro. No, ma che c'entra adesso? No, può intervenire qualunque coglione, ma non cambia la sostanza. Cioè, tra il parere di qualunque coglione che telefona e quello dell'OMS, io francamente preferisco l'OMS. Però per carità. Ma non c'è solo il coglione a dire che magari a porre dei dubbi, no? Assolutamente. Leggi questa roba, leggete questa roba. Andate a compulsare su internet voi. Intanto hanno respinto Bassolino, hanno respinto tutte le istanze di Bassolino. Quella è una storia incredibile, guarda. Beh, è una storia incredibile. No, è una storia vergognosa e incredibile. In cui il Partito Democratico sta facendo una figura di merda. Ma perché la figura di merda? Non ho capito. Per qualche voto pagato un euro, magari, perché intanto non è qualche voto, ma sono quei centinaia di voti che possono fare la differenza e quindi potrebbero aver vinto. Ma sai che devo dirti la verità? Bassolino. Ma chi se ne frega? Dopodiché, ma chi se ne frega? Se uno fa una sfida democratica aperta e libera, ma non vuoi neanche rimetterla in discussione, perché no, le primarie non si toccano, il risultato della candidata renziana non si tocca, mi pare una panzana pazzesca. Dopodiché io non voto alle primarie, per cui non... Senti un attimo una cosa, ha parlato il governatore del mondo su questo, e lo sai che per noi lui è anti-bassoliniano, quando parla il governatore del mondo, cioè dire De Luca, è ma praticamente Luca è una anti-bassoliniano sentenza. Per me è una sentenza, no, ma va spiegato, perché ma chi se ne frega, sì, anti-bassoliniano. Ma io... Le ragioni per cui uno dice una cosa per me sono anche quelle. Però per me è una sentenza. Era un consigliere particolarmente ispirato da Papa Francesco e dal Giubileo della Misericordia. E che vedevo, gli ha dato un euro. È meglio se gli dà una seppola. Comunque. quello che ha dato un euro, qualche euro ai votanti. Se fosse riguardato lui, però avesse riguardato la sua storia della sua elezione, no, non dice voto detto di scambio, sono babberie. Bella questa cosa, le babberie. Ah, queste. A Pagani c'è un'espressione bellissima, cioè babbarie. Queste sono babbarie, diciamo sinceramente. Dai. Babbarie. La prima una B solo, la seconda con due B. Diciamo, sono sciocchezze un po' più rafforzate come te. Mamma mia, il governatore, che spettacolo. E Borriello, che è uno di quelli che ha dato un euro, dice forse ho dato un euro, non mi ricordo. Adesso si ricorda qualcosa, dopo qualche ora. Due episodi, uno lo ricordo bene, un episodio che un signore mai visto si è presentato nel seggio, si è reso conto che di non avere i soldi. Questa signora che io abbraccio, una signora che io conosco da tantissimi anni col marito. In quel caso lei ha dato l'euro? Se me l'ha chiesto è probabile come che gliel'abbia dato, non lo so, non mi ricordo questo. L'unica cosa strana è che uno sta davanti al seggio a distribuire euro a persone che passano da là, cioè questo è. Detto questo, ragazzi, non è che hanno scoperto 500 persone che sono andate lì, truppe cammellate e pagate da qualcuno. Ma che c'è, conta il principio, no? Ma sì, mancano poche centinaia di voti, quei pochi voti l'Italia sarebbero non crollerà. Serviti a Bassolini. L'Italia non crollerà. No, ma è la credibilità di una cosa, no? Crozza, vai, crozza. Ma già quella, sai, cioè quando votano in pochi già può essere poco credibile. Che vuol quello, dire? Crozza. A Napoli quello che il Vesuvio ha risparmiato lo ha distrutto Bassolini. Ma non è vero, non Bassolini. L'11 settembre fatto per soldi. Non ne faccia una cosa. La procura personale sta anche pensando a Napoli di istituire il reato di Bassolini. Ma no, ma non Bassolino credo. Semplice, ma no. Bassolino aggravato, Bassolino con scasso. Guardi. Napoli c'è stato un boom di elettori, c'era una fila incredibile, pazzesco, manco regalassero i soldi. Allora ragazzi, sull'omicidio di Roma c'è la preziosa opinione della signora Santanchè, la quale dice... C'è stata le indagini anche lei, che è la signora Marble di Agatha Christie, chi è? No, lo senti, Poirot. Secondo lei, cioè a lei non sfuggirebbe mai un figlio drogato o alcolizzato, cioè se la prende indirettamente con questo i genitori? Può essere, forse. Ma non è vero, ragazzi. Cioè ci fanno, basta controllarli un ma po', ci fanno fessi quando vogliono, però. Dai su, controllare non, i a meno telefonini, sfuggire... controllare le cose, controllare tutto. I telefonini. Sì, sì, parlare con gli insegnanti sempre. Controllare i telefonini. Ma anche può essere, certo. Sì. Non mi sfuggirebbe mio figlio drogato o alcolizzato. Cioè, tu pensi di controllare tuo figlio? Ma e io la volta... vorrei controllare i miei figli. No, ma in generale, la volta che ti fottono, quello è sicuro, ma al 100%. Però ma... voglio stargli dietro. Insomma, sì, vabbè, ma se vogliono fotterti, sapere ti fottono. Chi frequentano, le amicizie, tutto. Io rimango un po' basita quando incontro altri genitori che non vedono e non sanno chi è il loro figlio. Perché io sono certa che se mio figlio facesse uso di sostanze stupefacenti, le dice sono non certa saprei. Che se fosse un abitudinario dell'alcol perché esce, va in discoteca come tutti, io sono certa che non potrebbe sfuggirmi. Ragazzi, dai, su, cioè, ma non esiste una cosa del genere, non esiste. A parte che uno dovrebbe passare tutta la vita a controllare, uno fa anche dell'altro. I genitori normalmente fanno dell'altro, non è che puoi passare tutto il giorno a controllare tuo figlio. I miei lavoravano, sono due professionisti. Potevi fare quello che volevi, dai, no, su. Mio padre ha fatto l'avvocato e lo continua a fare. Potevi fare quello che volevi. Conosceva tutte le mie amicizie, dove andavo alle feste, cioè era attento alla mia vita. Ma come è giusto che sia? Ma poi anche se sei attento puoi sfuggire lo stesso. È vero che ci sono dei genitori che non sanno neanche i nomi degli amici dei figli, ad esempio. Allora ragazzi, ho letto di una coppia, lei 29 anni, lui poco più di 30, i quali vogliono arrivare vergini al matrimonio. E vabbè, ognuno fa il cazzo che vuole, se uno è malato è malato. Sì, cioè. A Milano è un'associazione che è nata, ho visto. Sì, appunto, no, ma se uno è malato è malato, cioè se uno in testa non... Vabbè, ma sai, loro sono così e vabbè, hanno fatto va bene, ognuno tanti, fa quello che pare. Vuole. La cosa incredibile è che aderisco ad un'associazione che vuole convincere evidentemente anche altre persone ad arrivare vergini al matrimonio. No, convincere non mi sembrava da quel che ho letto. Beh sì, naturalmente, una situazione che ci sta a fare per accogliere persone, per in qualche modo per, no, per diffondere il verbo della purezza. Tant'è che si chiama Purex. Senti chi l'ha fondata, una che si chiama Spezza Catena, tra l'altro. Ti starei chiedendo cos'è Purex. Una nuova marca di preservativi o un detersivo sbiancante? Sicuramente preserva e soprattutto sbianca. Purex è un movimento che vuole impiantare una nuova cultura, la cultura della purezza nelle relazioni e nella sessualità. Non dico niente, lascio a voi, non dico niente. Sì, è veramente uno spot pubblicitario. Poi dice Parenzo, non vogliono dire, vogliono diffondere urbi e torbi, arrivare al matrimonio puri. Casti. A Brucia, ma a me che va ascolto dagli Stati Uniti, che me frega del traffico. La Zanzara. Polizia vegana! Polizia vegana! Od Ingram! Ti dichiaro in arresto per infrazione vegana. Codice numero 827. Assunzione di crema di latte. Stronzate! Niente dieta vegana, niente poteri vegani. Ma è solo la mia prima infrazione, non ne sono concesse tre. Leggi. Alle 12.27 del primo febbraio ha ingerito consapevolmente del gelato. Il gelato non è vegano. Latte e uova, idiota. Il 4 aprile 19.30 hai passeggiato con pollo alla parmigiana. Perché? Non è vegano? Raggio de veganizzante! Fuoco! Io dico che arriveremo a questo, eh? Io vi dico solo questo. Arriveremo a questo, alla polizia vegana. C'è questo pericolo. Radunatevi intorno a questa trasmissione. Radunatevi, voi che avete ancora un minimo di sale in zucca, un minimo di cervello che funziona. Radunatevi intorno alla Zanzara per evitare che ci sia per strada la polizia vegana che vi controlla, che controlla cosa avete mangiato ieri sera, cosa mangiate la mattina, se avete mangiato qualcosa a base di latte, a base di animale. Radunatevi. Iniziamo, Parenzo, è 800 24 00 24. Marco, provincia di Milano, vai Marco. Pronto? Dimmi. Ciao, buonasera, buonasera. Vai, vai, dimmi. No, io telefono per fare uno spot a favore dei circoncisi, perché devo dire che in effetti l'igiene è decantata anche dalle donne, nel senso che appunto non ci sono problemi quando uno è circonciso. Anche adesso voi fate passare quelli che fate passare quelli che non lo sono come degli stozzoni, ragazzi. Ma di che stiamo parlando? Non voglio neanche parlare perché è un argomento così, ma insomma va bene, è vero, però basta verificare. Ma cosa basta verificare? Non voglio neanche parlarne perché è una cosa talmente ovvia e talmente, ma che ovvia? Dire, anche ovvia inutile, non è un dibattito di conversazione la circoncisione, mi pare. Io, a parte che uno può fare dibattiti su qualsiasi cosa senza la tua autorizzazione, però se uno vuole continuare a discutere basta che veda, ripeto, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma non potete far passare, non potete far passare quelli che non sono circoncisi come degli zozzoni, cioè, perché questa è la cosa. In parte anche, sì, chiedete ai medici. Ma ho capito, ma è una follia. Secondo te dovrebbero essere tutti circoncisi allora? L'Organizzazione Mondiale della Sanità così dice. Cioè, secondo te, no, ma io parlo di Parenzo, non l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Parenzo, secondo te dovrebbero essere tutti circoncisi? Parenzo ritiene il parere dei medici. Ma tutti, ognuno fa quel che vuole. Io sono un liberale, libertario, quindi ognuno fa quello che gli pare. Se sto a quello che dice la famosa scienza, ti dico che i medici dicono che vorrebbe. Consiglieresti, non io. Consiglieresti a tutti di circoncidersi? Ma non consiglio niente, ognuno fa quel che gli pare. Uno può anche non lavarsi per 25 giorni, a me non interessa, basta. Vabbè, che mi stia lontano. Marco, tu quando ti sei circonciso, Marco? No, da piccolo, 3 anni. Ma perché sei ebreo? No, motivi suoi. No, sono cristiano. Ma faglielo spiegare a lui, ma che sei l'interprete di Marco? No, ma è normale che uno. È incredibile. Ci sono, ci sono degli argomenti su cui non ti tieni. Marco sta dicendo che cosa ha fatto. Lasciagli spiegare che cosa ha fatto. Qua 3 anni per quali motivi? Motivi tuoi, igienici, e i medici, la religione. No, motivi medici, perché c'era un problema e l'hanno circonciso. È stato anche abbastanza doloroso, però devo dire. I vantaggi. Beh, diciamo che a 3 anni non è che te lo ricordi adesso. Avrà fatto l'anestesia, immagino, spero, per lei. Insomma, i racconti dei genitori, quindi. Sì. Mi raccontano che non è stata proprio una cosa. Però comunque devo dire che i vantaggi rispetto a tutto il resto sono. Vale la pena, insomma. Va bene, Marco. Antonio da Roma, vai, Antonio. Tra l'altro, una delle altre cose che vengono. Dopo, ne parliamo dopo. Dai, Antonio, vai. Senti, io ti chiamavo per dire a quel tuo collega che è un gran maleducato. Sì, perché? Può essere per con qualcuno. Per il semplice motivo, state zitto, stronzo. Eccolo qua, maleducato. Eccolo qua, maleducato. Non può dare il coglione a uno che ha eccolo qua il primo. Telefona. Ecco il coglione. Ma infatti, ecco il coglione. E basta. Eccolo qua. Ecco il maleducato. Antonio, Antonio. Maleducato. Alberto da Milano, vai Alberto. Sì, volevo intervenire per la Boldrini quando sì, dimmi, dimmi. Il femminicidio, niente, che le donne sono le più delle responsabili di questo. Le, in che senso, scusa? In un certo modo perché? I figli e gli permettono di fare quello che vogliono. No, non ho capito bene, scusa, di che cosa sarebbero responsabili le donne nella tua testa? Nell'educazione, non insegnano rispetto, gli permettono di fare quel che vogliono e non si fanno neanche rispettare dei figli, quando diventeranno grandi non rispetteranno neanche le altre donne. No, ma non ho capito bene, di cosa stai parlando Alberto? Non ho capito, davvero non ho capito, cioè tu stai parlando il della femminicidio, allora se tu hai dei figli li educhi male gli permetti di non avere rispetto sulle donne, sulla madre in primis, loro diventeranno grandi e non rispetteranno le altre donne. Semplice. Tu stai dicendo che chi commette l'omicidio di una donna in realtà sono le madri, a parte non si capisce per le madri, perché sì le madri e non i padri, responsabili perché non hanno educato bene i figli. Vabbè ragazzi, ma siamo alla follia totale. Fabio da Pescara, dai. Fabio buonasera da Pescara. Luciani, sì. Buonasera Parenzo. Dimmi. Volevo parlare riguardo la dichiarazione della Santanchè. Allora? Io ho 19 anni, quindi capisco che comunque per un genitore possa essere davvero complicato controllare un figlio. Però io penso che possa essere controllato magari non sgamargli le sigarette, non accorgersi che sei ubriacato una sera, però quando si inizia a fare uso di sostanze pesanti. Ma voi siete tutti geni, voi pensate di poter controllare tutto. Un po' di attenzione, uno la fa. Poi pensate di poter controllare tutto. Non è così, non è così. Può essere così, ma non è così. Dio, patria e zanzara. Benvenuti tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30. Con me c'è Carlo Genta, Pierluigi Pardo. Ancora tu. Ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, un programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. Po' meno? Po' meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Una scena magnifica, un revisore di PwC incontra Cruciani nel corridoio di fronte al bagno, lo saluta e si presenta stringendogli la mano. Il revisore torna alla sua postazione e ascoltando la zanzara scopre come Cruciani si pulisce il culo. Inorridito guarda la sua mano e dice: siamo al top. Un commercialista. La gente è matta, eh. Io non mi ricordo questo episodio di qualcuno qui del palazzo di fronte che mi ha dato la mano uscendo dal bagno. Si sono inventati tutto, eh. Lorenzo, devi stare attento perché secondo alcune cifre secondo gli accertamenti sulla paternità in Italia, sì, il 15% dei secondi figli, stiamo parlando del, cioè, il tuo caso, 15%, sì, il 15% è di un altro. Beh, te ne dai mio terzo figlio, però no, parlo. Però in questo caso con la stessa persona è il secondo. Il 15%. Il 15% dei secondi figli. Questo assomiglia in modo incredibile, quindi il 15%, addirittura la percentuale arriva al 25% nel caso dei terzi figli. Attenzione a casa Parenzo Zevi, attenzione, controllare i giorni. Comunque hai detto una balla prima sulla circoncisione, una balla colossale. Sono andato a controllare bene, ogni tanto mi viene questo sghiribizzo. In realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia la circoncisione in Africa. Sì, in Africa, beh, ieri, no, certo. Ma no, ma tu dici consiglia in assoluto, no? No, tant'è che consiglia in Africa lo per la questione perché... dell'AIDS, esatto, per la questione non solo, dell'AIDS, ma anche per tutte le altre malattie. No, cioè, lei non dice... in Europa, cioè, no, non in Europa, no, certo, anche negli Stati Uniti la maggior parte degli maschi. Ma questa è una libera maschi... scelta, un'organizzazione mondiale della sanità. E chi ha mai detto consiglia che vuole... solo in Africa? Tu sì, invece hai detto consiglia in generale, no? Io ho detto tutt'altro, ho detto già ieri la questione dell'Africa. Questo per dire che, siccome la circoncisione porta a una maggiore pulizia, è evidente che per non è detto, della sanità, non è detto anche questo, questo è il punto, molti tecnici no, e medici, che in America la maggior parte, aspetta, dei maschi americani sono, vabbè, circoncisi, a parte che ci sono questo, una marea di ebrei in America, ma non è questo il punto, ma allora a tutti, anzi, no, assolutamente, chiedi al tuo amico Rocco Siffredi ad esempio, che mi pare che allora, su questo anche tema... su questo c'è qualcosa da dire. Per esempio il fatto che gli attori porno siano tutti circoncisi potrebbe far pensare che si fa sesso meglio. Baggianata, stupidaggine, ci sono attori porno che non si circoncidono e la cosa funziona lo stesso. Poi c'è la questione del pulirsi e del lavarsi. È evidente che probabilmente la circoncisione rende più semplice la pulizia della parte, su questo non c'è dubbio. Però, secondo alcuni medici, chi è circonciso tende a trascurare la parte terminale quando si lava, con la conseguenza di farlo meno accuratamente. Guarda che non è così scontato. Non è così scontato. La pulizia di ognuno, questo però riguarda. Esatto, quindi, esatto. Sì. Allora, molti mi dicono: avevano ragione Adinolfi e Giovanardi, è un delitto gay. Semplicemente perché si è scoperto che questo Marco Prato. Sembra, poi a me non me ne frega niente se è omosessuale o no, perché si tratta di un delitto, punto e basta. La questione gay non c'entra nulla, è l'unica cosa che volevo dire ieri. Poi ho detto, ma no, ma non sono gay. Adesso si è scoperto che questo, da alcuni dettagli, da alcune ricostruzioni, dagli amici che parlano, eccetera, eccetera, che questo pare fosse gay. E utilizziamo ogni tanto delle fidanzate o comunque delle persone di copertura, come per esempio Flavia Vento. Ma questo cosa aggiunge? Cosa toglie? No, nulla. Nulla, zero. Cioè non toglie nulla. Cioè non è che la questione omosessuale, cioè l'ambiente torbido omosessuale, c'entra qualcosa con l'uccisione del ragazzo. Non c'entra niente, niente. Allora andiamo a Varese, Riccardo, vai, 800 24 00 24. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Sempre dimmi, a proposito dell'argomento che state trattando, io sono padre, ho due figli, sono abbastanza d'accordo con Parenzo, nel senso che io mi accorgerei se i miei figli avessero degli atteggiamenti, dei comportamenti, perché li conosco, perché ci parlo, certo, quindi ho un rapporto abbastanza, sì, intenso. Cioè a un certo punto un trentenne compra 1.800 euro di cocaina e il padre, secondo voi, siccome conosce il figlio, dovrebbe saperlo. Ma siete fuori di testa. Cioè a un certo punto, no, questi qua prendono la loro strada, se ne fottono. D'accordo, però comunque, non c'entra. Non c'entra niente, dai, se conosci padre... Se c'è un dialogo in famiglia, sì, è ovvio. Ma sì, ma che c'entra? Ma... Allora, ragazzi, questi qua vivono da soli a un certo punto, per cui il controllo è zero. Se uno c'ha la testa a posto, ma bene. Se uno è malato di me... figli, capisce magari le paure, i sentimenti, le cose. Ma queste sono cose talmente banali, va e bene, normali. Riccardo, che solo tu dici che non esistono. Tra l'altro, perché... un padre ha dichiarato che se avesse saputo che suo figlio fosse in quelle condizioni, se ne sarebbe accorto, no? Ma sì, ma ragazzi, ma queste sono tutte chiacchiere. Il punto fondamentale è che a un certo punto le persone prendono la loro strada e l'influenza che possono avere i genitori è vero, dal punto di vista del controllo pratico ogni giorno, è zero, è assolutamente zero. È così. Però un malessere, un malumore, uno se ne accorge. Ma quale se malessere? Magari non li vedi da una settimana, abitano in un'altra città, in un altro posto, in un altro quartiere. Ma una settimana le cose cambiano completamente. Ma quella gente è capace di nascondere qualsiasi cosa, lo sai benissimo, ma dai. Sì, ma non è sempre così, comunque. Non è sempre così. Ma certo che non è sempre così, certo. In caserma non è così. Sono vissuto in una famiglia in cui i miei sapevano tutto, però poi tutto. Magari non sapevano nulla. Vabbè, fatti delle domande, però. Però non è che non mi pare che mi faccio di cocaina ogni giorno. No, però appunto dipende che rapporto uno ha con la propria famiglia. Alessandro da Pescara, vai. Abbastanza normale, insomma. Saluto a te, a Parenzo. Purtroppo anche io da genitore dico che sono d'accordo, perché cioè da genitore cosa? Il discorso è questo, sul fatto che comunque un genitore se ne dovrebbe accorgere. Ma di che cosa si dovrebbe? Se uno spende 1800 euro di droga, non ho capito. Ecco, allora questo è il primo punto, cioè due studenti che hanno 1800 euro ma in quali mano. Studenti? Ma di che pare? Questo si era uno si era addirittura laureato, faceva l'organizzatore di serate, ma che dite? Viveva una vita autonoma, di che cosa si deve accorgere uno? Aspetta, l'altro, almeno da quello che è stato detto sui giornali, era uno studente, l'altro. Sì, ma il padrone di casa, almeno da quello che io senti, Alessandro, se qualcuno spende 1500-1800 euro in cocaina, un genitore che vive lontano alcuna possibilità di nessuna, nemmeno di accorgersene, nemmeno lontanamente. No, ma allora tu non è che lo fai, non è che ti sniffi le cose davanti ai tuoi genitori, ragazzi. No, dai. Questo è sicuro, però la prima il giorno dopo sei normale davanti a loro. Che ne sanno quelli mica hanno le provette come davanti al Parlamento è successo qualche volta. Dai, non diciamo stupidamente. Ma questione di rapporto, di intimità, di quanto conosci i tuoi figli, ma quello... Sì, a 18 anni la voglio vedere quando c'hanno 18 anni. Ma io non magari sbaglierò io, ma i miei, ti assicuro che ragazzi, in genere è così. I genitori di questi qua non hanno alcuna responsabilità. Se uno è matto, punto. Dai, Alessandro, dimmi. Dico che in questa situazione, cioè da una parte c'è una famiglia che magari ha fatto un grande gesto nell'adottare questo bambino che purtroppo poi è diventato vittima. Vabbè, allora ragazzi, però non facciamo sociologia spiccia. No, non è di serie B, però cioè, ok, io posso capire che quello vive fuori sede, non è che gli fa il test tutte le sere, no, va bene anche il discorso che uno è libero di fare poi quello che cazzo gli vuole una volta diventa grande, Però cioè, la domanda, almeno se come è stata raccontata sui giornali, è vera, cioè se sto ragazzo... È pieno di famiglie che controllano, come dice Parenzo, ogni giorno i figli, anche fino a 30 anni, questi qua si facevano le pere d'eroina, sì, dai su, Federico da Padova, non diciamo stupidaggini, dai su, Federico da Padova, dai, i genitori che se controllano non succede niente, il contrario alcune volte, esattamente il contrario, Federico da Padova. Buonasera Cruciani, sono tutto sta nella testa, su questo non possiamo incidere mai, possiamo incidere sulla cultura, sugli studi, eccetera, ma anche qui è pieno di gente che ha studiato, eccetera, eccetera, come questo che ha studiato, laureato in scienze politiche, eccetera, con le pere d'eroina qua. Dai, su, Federico da Padova. Buonasera, sono in linea? Purtroppo, purtroppo non possiamo incidere più di tanto. Federico, dimmi. Sono in linea, Cruciani, buonasera. Sì, certo che io sei in linea. Dove stai? Al cesso? Scusami, Federico. Cioè, non so, che stai, al bagno con... No, volevo intervenire nel discorso vegano. Vai. Per dire, il mio criterio è molto semplice, cioè rispetto delle idee degli altri, tolleranza, ecco, se vogliamo vivere e lascia vivere. Se io e lei, Cruciani, andiamo al ristorante, lei si mangia la bistecca, io mangio un bel piatto di verdure, dov'è il problema? Cioè, assolutamente, a me lo dici. Se io non mangio la carne, perché devo essere raffigurato come un fanatico, un maniaco, eccetera? Secondo me, voi andate a cercare su internet i pazzoidi e dite, i vegani sono così, ma no, quelli sono pazzoidi. Cioè, se più sia per cani, da mangiare la carne, perché tu sei vegano? È normale che mangi la carne. Tu sei vegano? Io sono vegano. Sei vegano. Ma però, benissimo, ripeto, tu sei tollerante, io ne conosco altri 200 milioni, che invece dividono il mondo in due, i buoni e i cattivi. Ma io conosco i buoni e i cattivi, cioè quelli che stanno da una parte che dovrebbero convertirsi. È una specie di setta, neochiesa che vuole trasformare tutti vegani, vuole che tutti diventino vegani, perché se non lo sei, inquini il mondo, insomma, sei un pericolo per l'umanità. Non lo penserai tu, ma ti assicuro che lo pensano molte persone che sono vegane, no? Assolutamente tranquilla e mansueta. Tu sarai tranquilla e mansueta, amico mio. Ma internet spesso è una specie di cloaca, diciamolo tutta. Ma che c'entra internet? È pieno di persone che parlano, a prescindere. Ma lascia perdere, a prescindere da internet. Io ne conosco tanti che dividono il mondo in due. Da una parte quelli che. Quelli che hanno cambiato vita sono fanatici, ma sono quasi tutti così. I nazi vegani. Quasi tutti. Federico no, ma è un'eccezione. Cruciani, sei una merda! Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Vilo, circolatori, elettropompe e sistemi di pressurizzazione. Mostra convegno Rofiera Milano 15-18 marzo. La Zanzara. A Renzo è forte però, eh. Quando l'OMS dice che la carne non fa bene, l'OMS non conta un cazzo. Se l'OMS dice che si può tagliare il cazzo ai bambini, allè, l'OMS spacca. Allora andiamo a Roma, Andrea, vai, 800 24 00 24. Vai Andrea. Buonasera. Dimmi. Dunque, adesso con questi due assassini, sì, qui in Italia ricominciamo con il buonismo. Cioè, no, veramente non abbiamo, non è successo nulla per adesso. Ma chi? È colpa della cocaina, poi chiediamo la perizia psichiatrica. Eh beh, quello. Ma ragazzi, ma questi vanno buttati in galera, è chiusa la cella e buttate le chiavi. Uno. Due. La pena di morte? La pena di morte? No, che pena di morte, che la pena di morte gli fai in favore, gli fai. No, l'ergastolo, no, l'ergastolo, adesso cerchiamo di non fargli avere l'ergastolo. Ma siamo, ma ragazzi, ma dove siamo? Vabbè, ma ho capito, ma gli avvocati che devono fare? Il mestiere loro, no? Non lo so, gli avvocati fanno, certo che fanno affari loro, però voglio dire, anche la giustizia. Purtroppo problema è l'ordinamento italiano, che prevede che l'ergastolo in realtà non sia mai ergastolo, e che poi alla fine, tra una cosa e l'altra, dopo 15-16 anni si esce. Beh, dipende per quali crimini, poi magari erano pure 20.000 euro di premio. No, scusate, quello no, però un lavoro in qualche cooperativa sicuro. Chiedo ancora scusa. No, un lavoro in qualche cooperativa. Dico una cosa, la famiglia, lei dice che la famiglia non c'entra niente. La famiglia ha... Io non lo so, io non dico che non c'entra niente, dico semplicemente... L'ha sentito il padre nella prima intervista, per figlio è andato lì e ha detto... Ho fatto una cosa brutta. Che hai fatto, figlio mio? Una cosa brutta. Che hai fatto? Hai preso la cocaina? Peggio, papà, peggio. Dice, che c'è peggio della cocaina? C'è un padre che... per me la dice tutto. Ma ragazzi, ma non ci sentiamo sempre superiori alle persone che ascoltiamo e che conosciamo superficialmente in televisione? Cioè, non... Beh, vabbè, io non lo so come sono stati i rapporti tra il padre e il figlio. Cioè, non ho la minima idea. So semplicemente che questo qua è uno che a un certo punto si è reso autonomo facendo il suo lavoro, testa... bacata, perché non ha il senso, il rispetto della vita, perché tutto parte da quello, punto e basta. Cioè, i genitori a un certo punto non c'entrano più una mazza, dai, su, tu, ci sono casi di assassini che sono cresciuti, sono stati mandati alle migliori università, certo, con i genitori che li seguivano. Se c'hai qualcosa nel cervello, che un tarlo bacato, ce l'hai comunque anche, un tarlo bacato, dai. È vero. No, ma è così. Il problema è il fatto che uno non si accorga veramente di nulla, cioè nessuna... Ho capito, amico mio, ma se uno fa una vita autonoma e l'altro lavora e fa la sua vita, come fai a accorgerti che uno si è fatto cocaina? Però uno qualcosa a quei livelli là... Ma guarda, qualcuno, che è pieno di genitori che non si accorgono che i figli sono fatti di cocaina, sono strafatti di cocaina. Sarà un limite, ma è così, dai, su. Andrea, che vuoi aggiungere? Tutti accorgono che anche questo è vero. Però vabbè, comunque ragazzi, chiudiamo là. Io quello che volevo buttare via la chiave, vabbè, Fabrizio da Torino, vai, Fabrizio da Torino, ho capito. Sì, è giusto appunto, ciao a tutti. Volevo dire che appunto che è troppo facile dare la colpa alla cocaina quando uno latita una cattiveria dentro, perché il gesto è sconsiderato, basta. Uno non, l'avvocato non può dire, vabbè, aveva adoperato la cocaina. No, lui ha detto è un cocainomane. Ieri da noi ha detto è un cocainomane, e la cocaina ha avuto un ruolo fondamentale, perché senza cocaina non avrebbero ucciso. Ma perché uno lo latita, evidentemente. C'è un sacco di gente. La cocaina può essere, come dire, un aiuto da questo punto di vista. Un detonatore di un malessere, che ne sappiamo? Può darsi che è un veicolo, sicuramente un veicolo, perché ti disinibisce in tutti i casi. Ma tu hai mai tirato la coca? 20 anni fa è capitato, però. Per quanto tempo? Per quanto tempo? No, ma così, qualche sabato, qualche serata così stupida, diciamo. Però non mi è mai passato per la testa di fare una cosa del genere. No, ma certo. Ma, devi essere imbecille. Il rapporto, tra l'altro, nessuno parla dell'alcol, perché questi qua si sono imbottiti di cocaina e pure di alcol. Però dell'alcol non si parla, si parla della cocaina. L'alcol è la stessa identica cosa. No, ma se tu fai un mix... C'è chi viene la ciucca malinconica, c'è chi gli viene la ciucca bastarda e c'è chi deve spaccare la faccia a qualcuno. È perché comunque latita una cattiveria dentro. Io non ho mai bevuto e picchiato qualcuno. Che cosa vuol dire? Giuseppe da Roma, grazie Fabrizio. Giuseppe, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Guarda, io penso, sono un investigatore privato, quindi col mio lavoro ne vedo, insomma, ne vedo tante. Avete ragione entrambi, perché Parenzo ha ragione quando dice che il genitore deve controllare, però deve controllare quando ancora il ragazzo è minorenne, quindi controllo il telefonino, vedo le tue amicizie. Vabbè, ma quello... se c'hai un tarro per la testa, se fai qualcosa che non va bene, ti vengono a calci sulle palle, eccetera, eccetera. Quando sei grande e sei maggiorenne, non hai preso la tua strada, quindi è inutile intervenire. Sì, avrai anche preso la tua strada, ma se c'è comunque un rapporto che evidentemente si evolve in un'altra cosa, comunque ti accorgi se il tuo figlio cambia, io credo, poi non lo so, per carità. Ma guarda, ma quando accade, non è che si finisce di essere genitori e figli, credo. Poi non so in che mondo vivete voi, però. Certo, no, il rapporto va coltivato, però quando accadono queste cose, la colpa è principalmente dello Stato che. Che c'entra lo Stato adesso? Beh, lo Stato non, lo Stato non c'entra una mazza, no, Giuseppe, uno che va a comprare 1300 euro di cocaina così come se fosse a Roma. Che cazzo c'entra lo Stato? Scusa, non lo capisco. Stato non c'entra niente. La colpa è dello Stato, meno male che fa pure l'investigatore privato. Non lo so. Certo, sono persone grasse e annoiate perché non hanno. E me allora? Ma che chi te l'ha detto? Questo lavorava, magari che stronzate. Giuseppe, ma di che stai parlando? Lo Stato, la colpa è dello Stato. Questi ammazzano una persona, la colpa è dello Stato. Adesso perché lo Stato? La colpa è dello Stato perché non ci sono pene sicure. Non ci sono pene, ma non c'entra niente lo Stato. Tu hai detto un'altra cosa prima, è la colpa dello Stato perché questi sono annoiati. Che se questi sono annoiati, certo, è colpa dello Stato. Beh, non c'hanno prospettive. Ma non è vero, lavorava uno degli assassini. Ma che vuol dire? Ma la società non è fatta solo di lavoro, è fatto anche di futuro. Ma un futuro tu vuoi lavorare e guadagni 1200 euro. Io veramente, ragazzi, ma voi vi ha dato di volta il cervello. Cioè, la colpa è dello Stato perché questi qua erano annoiati. Dunque, lo Stato ti deve offrire anche, non lo so, uno svago, no, oltre che il lavoro. Deve supportare i genitori nella crescita del figlio. Ma qua, ma che Stato c'hai in mente? Il fascismo? Non ho capito. No, cioè, figuriamo, io e che ne so? Lo Stato paternalista, lo Stato che si deve occupare di tutto. Per fortuna non è così, e ognuno va per la sua strada. Uno Stato che è tutore. Ma scusa, tu che indagini fai come investigatore privato? Beh, io mi occupo di indagini private in ambito aziendale, insomma è un'attività che va a toccare spionaggio industriale, bravo, certo, contro spionaggio industriale, bravo. Contro spionaggio industriale. Ma roba di corna? Roba di corna? Quante ne vuoi? No, ma fai pure quello, fai? Beh, ovvio. Quanto certo. Costa, per esempio? Se, no, ma è una. Beh, Giuseppe, scusa, hai chiamato te, mica ho chiamato io. Allora, uno ti chiede, viene da te una donna, spesso magari è così, no? Nella maggior parte dei casi è così, non genere, è detto, ma in genere è così. No, una donna viene da te e ti dice, guarda, mio marito, penso che mi faccia le corna. Perfetto, in base alla difficoltà del servizio. Che ne so, dura una settimana, metti un pedinamento, eccetera, in cui poi tu porti le prove. Purtroppo questo qua. Guarda, dipende dall'impegno. Un'investigazione può costare 1000 euro, come ne può costare 4000, 5000, dipende da quello che ti chiedi. Se io devo stare H24 appresso a tuo marito, ti costa tanto, ma se io riduco l'intervento negli orari. In media quanto può costare scoprire se uno mi fa le corna? Guarda, o no? 4-5 mila, a me non me ne frega niente, per carità. Almeno 1500 euro, 1500 almeno. In media, euro, vabbè, ma spostamenti, cose. Roba banale, allora, dai, su. Ma è banale, perché è banale? Cioè, no, banale il lavoro vostro, per carità, 1500 euro dico banale, nel senso non è tantissimo in questo senso. No, non è tantissimo, infatti è una leggenda questa cosa che l'investigatore costa tanto, e oltretutto il risultato può essere esibito anche in sede giudiziale per una separazione giudiziale o per richiedere il danno. Mamma mia, che paura, ragazzi. Ma guarda che è pieno di gente. Ma no, ma non esiste più la separazione per colpa. No, ma comunque è pieno di gente. No, non è per colpa, è giudiziale. Ma comunque è pieno di gente. Guarda che è pieno di gente che si affida agli investigatori privati. È impressionante. Pieno, non c'è lavoro, dici? Non c'è lavoro. Beh, lavoro c'è, però di questi tempi, insomma, la crisi è arrivata, ha toccato anche. E quando scoprite le cose, tu li fai gli appostamenti, Giuseppe? Li fai o no? Certo, io sono il titolare, ma faccio anche gli appostamenti. Allora, la cosa stupida, quando scoprite le cose, ogni tanto vi divertite pure o no? Cioè qualche piccola goduria, così vedi quello che se l'hai, vabbè, quando sì, perché delle volte le persone si danno ridicole, non lo sanno, no? Capito? Quando vedi sentono... delle situazioni ridicole, no? Delle situazioni. Sì, sento, sì, quando vedi, che ne so, la cosa più strana, ovviamente senza fare nomi, la cosa più strana che ti è capitata. Raccontaci. Allora, guarda, adesso ci sono gli omosessuali, quindi capita che molto spesso noi andiamo a fare investigazioni invece di avere l'uomo che va con la donna, abbiamo l'uomo che va con la donna, e sono i casi più difficili perché devi essere sicuro di. Cioè, vai l'uomo che va con l'uomo, cioè nel senso beccate uno, e dunque dopo dite alla moglie, guarda che non è andato con una donna. E quella è la cosa più dura, perché insomma la donna sospetta la femmina. E sono sempre di più questi casi? Ma l'infedeltà coniugale. No, l'infedeltà coniugale, dico là il fatto che trovate un uomo che va con un altro uomo. 20 anni fa non c'era. Adesso sì. Invece, insomma, la cosa è abbastanza diffusa. Oppure coi trans, che ne all'ordine so. Del giorno. Dai, coi trans, vabbè, quello trans, prostitute, quello sì. Però ecco, la relazione tra uomo e uomo, quindi insomma, questo questa cosa è sempre più frequente. È sempre è dilagante. Frequente. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao. Ascolto la Zanzara e sono sempre d'accordo con Cruciani. Mi devo preoccupare? La Zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Sono all'autogrill di Fabbro. Volevo ordinare un mio panino e prima di me la fila lunghissima. Tre persone hanno chiesto lo stesso panino vegano. È finito, ci hanno circondati. Davide dalla provincia di Napoli, vai Davide. Ciao Giuseppe, ciao, siamo da Scampia. Volevo fare una riflessione. Scampia, per meraviglioso. Bella. Beh, bella, volevo adesso non esageriamo. Bella, non esageriamo, Bella, non esageriamo. No, dico bella, è bella questa, dai, voglio dire. Cioè, è un cesso di posto alla fine, no? Vabbè, però le persone non sono tutte quelle là che pensano. Le persone che c'entra, io non mica ho detto le persone. Purtroppo il posto è contesto. È un assieme, un raggruppo di tutto il male. L'hanno messo là. Che ci possiamo fare? No, t'hanno messo là. Sei nato lì, evidentemente. Sei nato lì. No, io sono nato in un altro posto, però purtroppo ho avuto la sfortuna di avere un appartamento dalle case popolari. Case popolari di Scampia. Ci siamo ritrovati là tutte le massaie, diciamo, di Napoli e provincia. La Zanzara dentro Scampia in questo momento, dentro Scampia. Fai risuonare dentro Scampia il suono della Zanzara, dentro Scampia. Vai Davide. Niente, voleva lasciare al discorso di quei due coglioni che hanno fatto quell'omicidio. I due assassini, direi. No, purtroppo io riferisco sempre alle famiglie, voglio dire. E che vuoi dire alle famiglie? Ci sono due fasce di... No, tu sei a favore, della pena di morte, per esempio, in questo caso, come dice la signora che era ieri? In questo caso qua, sì. Ah, pena di morte, tu dici, pena di morte. La pena, cioè, questi... La signora Rita, non è in questo caso, ma non esiste questo caso, quell'altro, l'omicidio plurimo, triplo, quadruplo, eccetera. O uno è contrario, perché è contrario per principio, uno non è che a seconda del caso dice ci vorrebbe la pena di morte. Questo è assurdo. Io sono contrario per principio. Casi, in alcuni casi ci vorrebbe la pena di morte, allora... però io, una cosa satanica, li farei soffrire a vite, fino alla morte. Okay. Cioè, come li farei soffrire? Con la tortura? Come li dovrebbe far soffrire fino alla morte? Con la tortura, come li faresti soffrire? Davide, come li faresti soffrire? Pronto? Vabbè, ciao. Sempre Scampia, eh? Beh, caro Parenzo, a Roma entra in campo a favore dei grillini, iscrivendosi addirittura al Movimento 5 Stelle, il professor Carlo Taormina. E ci professore. Ci mancava dei 5 Stelle. Come stai? Come stai? Benissimo, eccolo là. Benissimo, voi tutti bene? Beh, è tanto che non facciamo casino. È tanto e facciamolo stasera, dai, decidiamo di fare un po' di casino, no, dai. No, no. Come ormai no? Siamo istituzionali. No, ma che ma tu istituzionale? 5 Stelle, ti non so di che istituzionale. Ti sei scritto 5 Stelle, scusa. Beh, ma perché? Luigi Di Maio non è istituzionale, è istituzionalissimo. No, ma ho capito, però, professore, tu sei stato, a parte che secondo me Grillo e Casaleggio non lo sanno che ti sei scritto 5 Stelle. Beh, lo sapranno, l'avranno saputo. Ormai oggi ho avuto 85.000 contatti, quindi penso che l'abbia saputo. Dove 85.000? Quindi un grillino, anche lui un grillino. Vabbè. Su Facebook. Vabbè, su Facebook. Ma tu non capito, come hai fatto materialmente a scriverti 5 Stelle? Spiegami. Beh, c'è il sito, no? C'è il blog di Beppe Grillo e si fa l'iscrizione lì. Cioè, dentro ti sei iscritto al blog di Grillo, in pratica? Certo. Come quanto hai versato? Quanto hai dato di contributo? Ma non lo so, fanno loro poi, non so se... Come fanno loro? Che cosa? Non lo so come fanno. Ma vai fatto una donazione, 1000 euro, farai una donazione. A me non mi ha chiesto niente nessuno. No, ma quello infatti l'iscrizione credo che sia gratuita. Ma tu... E me la chiederanno poi, per carità. No, e quanto darai? 2000 euro, 3000 euro? Ma quello che mi chiederanno non c'è problema. No, piuttosto, potresti fare, però questo è interessante. Piuttosto che darli per discriminazione sessuale sul lavoro, vi do volentieri a... al movimento. No, ma scusa un attimo, professore, questo è interessante, però tu che sei una persona, insomma, che ha un conto in banca piuttosto importante, insomma. Quello che è, sì. Beh, insomma, è importante per i tuoi soldi guadagnati facendo il tuo mestiere, mica rubati, facendo per carità. Il mio mestiere pagando le tasse. Assolutamente, per carità. Potresti fare però dare un bel contributo al Movimento 5 Stelle, che ne so, proviamo a fare veramente questa cosa. Darò, che ne so, 10.000 euro al Movimento 5 Stelle. Perché io no? Il contributo che do, che è sempre a livello di attività, diciamo, elettorale, sia come elettore, sia come sì, sponsorizzazione presso altri elettori, il mio contributo è quello che posso dare sul piano delle possibili competenze, ma senza mai avere... cioè, che vorresti fare per il Movimento 5 Stelle? No, assolutamente. No, tutto quello che c'è di utile rispetto ai vari obiettivi che... Cioè, l'assessore a Roma lo faresti, per esempio? No, io non voglio poltrone di niente, non mi interessa assolutamente nulla. Io non voglio assolutamente... Vabbè, il consulente, che ne so. Ma se mi chiedono un consiglio, una consulenza, gratuitamente, certamente sono... Oh, bene, questo è interessante. Cioè, a Roma, dove tu dici che vincerà quella dei 5 Stelle, no? Beh, non c'è ombra di dubbio, chi vuoi che vinca. Com'è? Come la trovi questa Raggi? la trovo non bene, benissimo. Ma non da ora, ma già da tempo, perché è persona che competente, mi è nota, l'endorsement. Beh, insomma, per carità, poi naturalmente sono i cittadini che decidono. Tu però, voti, insomma, e farai votare Raggi, diciamo. Ma non c'è ombra di dubbio, non c'è ombra di dubbio. Voto e farei votare. Quanti voti ha? Mi pare che sarebbe il modo di dare una svolta intanto a sta città, sì, che potrebbe essere una premessa per una svolta nel paese. E Giachetti, scusa, secondo povero me. Giachetti? No, Bertolaso. Ma guarda, anche. Giachetti è un carissimo, tra l'altro anche un carissimo amico. Però insomma, qui il problema è che anche lui rappresenta il vecchio, dici. Il muffito più che il vecchio, ecco, quindi il potere di lui, il potere. Ma sì, ma per carità, bisogna assolutamente... Ma quale potere? Un ex radicale come te, scusa, incredibile. Un ex radicale come me, te, che poi è diventato del PD e quindi è un po' meno radicale. E invece Bertolaso? Un po' più... No, vabbè, non ne parliamo di Bertolaso. No, parliamone, come no, parliamo. Ma per carità, veramente, secondo me è una vergogna averlo candidato con pluridecorato al valore della giustizia, con tutte le imputazioni che si ritrova. Io sono, come avvocato mi fa piacere, per carità, ma io sono certo un garantista, ma cioè, questa è un'altra cosa che, se vogliamo voltare pagina in questo paese, chiamiamo Bertolaso, insomma, veramente siamo una vergogna, arrivati al ridicolo. Vabbè, insomma, non ho capito, ma ti ha aiutato qualcuno a fare questa iscrizione 5 Stelle? Cioè, sei stato coadiuvato da qualcuno? Sono arrivati dei pezzi grossi? Che è successo? L'ho fatta per conto mio. Poi, siccome pensavo di avere sbagliato, naturalmente mi sono fatto carico di consultare alcuni amici del movimento che mi hanno... Cioè, alcuni dirigenti politici che sono... No, sono amici. Sono consiglieri amici. Comunali, che ne so. Solo, no, sono solo amici. Sono solo amici. Comunque, iscritti e attivisti. Taormina Grillino. Taormina scende Grillino. In campo. Taormina, guarda, scende in campo. Questa è soltanto una formalizzazione. Io, sì, da tempo, sì, da tempo. Sai, da tempo sto dicendo questa cosa. Ma il tuo presidente del Consiglio ideale, chi è dei 5 Stelle? Chi lo potrebbe fare? Ma secondo me Luigi Di Maio. Di Maio for President. Di Maio, cioè, Di Maio for President. Certamente, sicuramente. Casaleggio agli interni, magari, più, Casaleggio. Ma guarda, queste sono cose che mi auguro che vengano decise bene, perché poi Grillo agli esteri, anche, così anche, vedrai il casino anche, che fa con le cancellerie europee. Anche il Movimento 5 Stelle è esposto alle critiche di tutti. E poi Grillo che potrebbe fare, Grillo? Che io che mi possa iscrivere dove si vuole, ma insomma la mia libertà di pensiero e di autonomia conservo sempre, anche perché non voglio niente, quindi... Senti, ma il delitto di Roma, Carlo? Sì. Come lo possiamo definire, il delitto di Roma? Beh, una cosa allucinante, maturata dentro una situazione che tutti quanti conosciamo. Qual è la situazione che conosciamo? Beh, la situazione è quella che tutti i giornali hanno scritto, cioè? Che si trattava di un festino tra i tre ed è successo quello che è successo. Cioè, la colpa... Certamente si tratta di qualcosa che deve essere attribuito insomma, la bestialità è talmente alta che non può essere... altro che frutto di una situazione dovuta all'utilizzazione di droghe, a quali droghe. E i gay che c'entrano? I gay che c'entrano? Beh, su, io prendo atto del fatto che erano tre che stavano in rapporti omosessuali, ma in quel contesto è successo quello che è successo, punto e basta. Ho capito. Poi gli altri, ma che c'entrano i gay? Non è che i gay sono più perversi, cioè... In questo caso è successo così. No. Ma come gay in questo caso è successo così? Ma non è che i gay sono più maiali? Non è che i gay sono... Ho capito, ma... Pure a Maddaloni, hai visto la sindaca che hanno arrestato? Che aveva... Beh, mo' è colpa dei froci, dai, su... Ma dai, su, Carlo, ma non può essere colpa... Tu stai dicendo che sostanzialmente è colpa dei froci? No, non sto dicendo questo. Sono due situazioni che io riscontro. In 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni abbiamo avuto 2 situazioni come queste. Bah. Conta, non conta... Vabbè, fermo lì. No, si deve parlare. La zanzara. Crucia, ci sarà la fine, se ci sarà la fine. La Boldrini che dice penso che si mette a correggere i titoli dei giornali. Pensiamoci. Allora, alcuni scrivono colpo definitivo al Movimento 5 Stelle dopo l'adesione di Carlo Taormina. Vabbè, Carlo, che vuoi fare? Così, cioè, vabbè, ci sta tutto, ci sta. Il tempo è garantuto. C'è gente che dice com'è possibile uno che ha fatto il sottosegretario del governo Berlusconi è stato in Forza Italia e adesso si iscrive ai 5 Stelle. Effettivamente questo uno può pensare. Secondo me te cacciano. Se mi cacciano me ne vado, qual è il problema? Cioè, continuerò a votare e a far votare e non sarò un iscritto, qual è? Secondo me appena cominciano a prendere consapevolezza te cacciano, secondo me. Va bene, mi cacceranno. State un po' una battaglia per farmi cacciare. No, anzi, al contrario. Per noi è una garanzia il fatto che tu sia lì, professore, anzi. E perché una garanzia? No, una grande garanzia di battaglia. No, perché così li raddrizzi sul fronte giustizialista. No, è una garanzia. Io ritengo che siano tutte le condizioni perché da parte mia e per quelle che possono essere le mie consapevolezze. Sì. Diciamo così, anche sia giuridiche che finanziarie, io posso dare un contributo. Poi, puoi dare un contributo come consulente sulla giustizia, diciamo. Se non lo vogliono, chi se ne frega. Io non ho capito perché pensi che il delitto di Roma sia una conseguenza del permissivismo, vabbè, dell'omologazione dell'omosessualità. Che c'entra? Scusa, non ho capito. Ma è un clima che non mi piace. Ma che c'entra con l'omicidio? Non ritengo che possa essere fonte di una. Diciamo di un recupero di equilibrio e ma che di c'entra? Moralità scusa, il riconoscimento delle coppie gay porta all'omicidio. Sto dicendo che nel momento in cui questi fenomeni diventano diciamo di consapevolezza generale e quindi fanno anche da allora? Come dire da esempio certo poi la degenerazione del costume è inevitabile. Ma che c'entra, scusa, le fanno da esempio cosa? Cioè, siccome io preferisco che l'esempio lo faccia una famiglia eterosessuale piuttosto che una famiglia omosessuale. Ma non c'entra nulla col delitto di cui stiamo parlando? Guarda, può entrarci come può non entrarci. Ma non c'entra un tubo, professore, dai. Sei accecato dall'omofobia proprio. No, assolutamente. Accecato dall'omofobia. Mi rendo perfettamente conto che quelle situazioni, come l'esperienza di tutti i giorni insegna, può accadere in qualunque contesto. Appunto. Io rilevo. Rilevo? Sì. Una situazione come quella dei 3 ragazzi che stavano insieme per praticare omosessualità. No, 2 ragazzi, il terzo ha prodotto che cosa? Ha prodotto cosa? Erano 3. Vabbè, ha prodotto cosa? Di quello che faceva il terzo ha che ne sappiamo. Ha prodotto l'idea di drogarsi fino a livelli i gay si drogano. Ha prodotto queste quello che è successo. Ma non è vero, non ha prodotto niente, non c'entra niente i gay col fatto di il contesto è quello. Cioè, tu stai dicendo che essere deviati. Sto dicendo che certamente si è trattata di una situazione della quale dobbiamo prendere atto che mentre c'era questo festino che non era tra eterosessuali, ma tra persone dello stesso sesso, si è verificato questo episodio. E che vuol dire? E che vuol dire? Io non lo so che i gay portano perversione, che i gay portano perversione, portano perversione. Ma che prendi atto? Arriva la conclusione. Prendere atto non posso perché il paese non ormai. Cioè, non, tu stai dicendo ormai è scassato. Ormai è in mano ai gay, ormai è in mano ai gay il paese, dai. Ma in mano no, ma non è soltanto quello, è in mano alla corruzione, in mano ai. In mano all'omosessualità, Immoralità familiare. Ma perché un gay, secondo te, è immorale? Un gay? Guarda, ma hai già fregato una volta e non mi No, ma un gay immorale, non capisco se è gay immorale, che Io vuol dire? Ritengo che sia una situazione, siccome immorale. Riguarda il 2% della popolazione, sia una situazione di diversità rispetto al 98%. Poi. Che magari quelli siano più intelligenti, che magari siano più bravi, che siano più capaci di fare quello che nella vita si deve fare. Ma è ossessionato dai gay. È ossessionato dai gay, Taormina. No, tu li metti dentro, li infili dentro in ogni cosa, tu, proprio i gay. Guarda, le domande me le avete fatte voi. Scusa, Carlo. La promiscuità. Carlo, scusami un attimo. Carlo, io voglio capire una cosa. Tu, per esempio, uno di questi qua... tu la faresti la difesa di questi qua? Ma io difendo tutti. Una cosa è la difesa. Ma la faresti di difendere? I sordi. La valutazione morale intrinseca ma che tengo nell'intimo della mia coscienza. Ma li difenderesti questi qua o no? Li difenderesti? Ma certo, perché non devo difendere? Assolutamente. Più criminali sono, più li difende, per forza. È giusto, è il suo lavoro. No, io veramente penso che sia da difendere sia i criminali, quando criminali sono, e quindi anche gli innocenti, ma qui che faresti come primo atto di difesa? Che faresti qui? È molto più complicato far assolvere un innocente piuttosto che un colpevole. Ma che faresti qua? Che faresti qui? Faresti qui il primo atto della difesa Taormina? Intanto subito in conferenza stampa immediata. Incapacità di intendere, di volere, sicuro. Guarda, secondo me su questo non c'è ombra di dubbio, si può fare critica come si vuole. Ieri sera Vespa a porta diceva ogni volta che c'è un grave delitto tutti si buttano sull'incapacità di intendere e di volere. Io credo che se per esempio fosse stata assunta sostanza stupefacente conoscessero le caratteristiche e che a loro insaputa abbia determinato quella situazione di anormalità incredibile, quella è incapacità di intendere il volere, inutile ci prendiamo. Ma quella è cocaina, lo sapevano bene, mica è cosa, mica hanno preso. Ma Taormina, già sta. No, secondo le notizie, cioè cocaina è un discorso. Ma è cocaina, secondo le notizie che leggo dai giornali, si sarebbe trattato di una particolare sostanza. Cocaina un po' trattata, dice lui, determinate. Subito la difesa in azione, allora, subito la difesa in azione. Ma è certo, ma scusa. Ma è normale, perizie, cose sulla cocaina, ma a bloccare tutto, prove, è ovvio. Preferisco pensare che un giovane di 20-30 anni abbia agito in stato di incapacità di intendere e di volere, piuttosto che configurarmelo come uno del Circeo o come un criminale veramente ai massimi livelli. Scusa un attimo. Dal punto di vista dell'umanità, per quello che rappresenta l'umanità, per tutti quanti noi, comunque, preferiamo una situazione anomala piuttosto che comunque una situazione Carlo, la realtà è che... purtroppo dico la realtà è che il mondo omosessuale spesso è un mondo promiscuo, questo è il punto fondamentale. Ma che promiscuo? Credo che sia un mondo promiscuo. Ma non è promiscuo me. Per niente. Ma che significa promiscuo? Scusa. Promiscuo, cioè ci sono delle situazioni promiscue di, come dire, no di promiscuità sessuale, dico, no? Questo. Beh, se sono omosessuali non è promiscuità sessuale, non ho capito. Ma c'è molta promiscuità sessuale tra di loro, no? Cioè festini, orge, ma cose. Sono fatti loro, ma quello lo fanno tutti, guarda. Scusa un attimo, ma per concludere, Vendola, che ne pensi di Vendola? Dovrebbe essere bloccata la signora Vendola. La signora Vendola. Che dice? Come la signora? Che ne pensi della signora Vendola? La signora Vendola ha pensato tutto il male possibile, ma fatemi capire, insomma, la situazione è veramente... Qui poi c'è un problema, secondo me, già è stato detto, e quindi... Andrebbe arrestato Vendola. Andrebbe arrestato. Secondo la legge italiana... La surrogata è vietata dalla legge penale. Andrebbe arrestato, non in Canada, l'ha fatta in Canada, ma è partito dall'Italia. Stati Uniti. Per cui si tratta di un comportamento che è nato in Italia, organizzato in Italia. Quindi ci sono i margini per poterlo arrestare. È un diritto nazionale e deve essere giudicato e può essere giudicato anche in Italia. Tu lo arresteresti? Ma guarda, sta cosa dell'utero in affitto è veramente una cosa di una gravità unica. Lo arresteresti o no? Lo arresteresti o no? Io sì. Lo arresteresti. Sulla base di che cosa, però? In Italia non si può. Come? Ma non si può, non è reato in Italia, non c'è nessun legame. Ma gli toglierei pure... Che cosa? Gli toglieresti il bambino, non ho capito. Certo. Ma dai, su, cazzo. Siamo impazziti. E a chi lo daresti sto bambino? A chi lo daresti sto bambino? Ah, beh, così come accade quando ci sono le coppie complicate, eccetera, per cui ci sono gli... Cioè, come accade a due drogati, che ne so, a due drogati. Certo, come? Come accade a due drogati, a due assassini, che ne so. Come accade a due persone che rispetto alla genitorialità non si comportano... si comporta in maniera... Ma perché molto, non capisco perché un lontana dalla... Ma non capisco perché un bambino perché un bambino non può nascere, non può crescere bene in mezzo a due omosessuali, a mezzo... Vabbè, a due... Io penso di no. Ma, sì, ma addirittura no. L'arresto, ma siamo alla follia proprio, dai. E credo di non essere solo. È pieno di froci che mettono, che allevano. Il problema solo e soltanto del bambino che è nato, il problema è dell'utilizzazione della tecnica dell'utero in affitto, che veramente dovrebbe essere istituito, configurato come crimine contro l'umanità, come tanti altri. Dunque tu andresti in galera subito Vendola, ma anche 20 anni, che ne so, diamogli 20 anni. Ma non è questo, bisogna dare il segno della che ne so, 20 anni, 10, 15, questo, 20, che ne so, quello che sarà, che prevede la legge. La legge non prevede nulla, la legge prevede il divieto della surrogata e comunque... Vabbè, ma infatti non l'ha fatto in Italia. Sto facendo io un processo e fallo il processo nei confronti di Severino Antinori, ingiustamente accusato. Ma scusa, tu difendi Antinori, che è la massima espressione dell'utero in affitto, io di queste cose? No, non è vero, non è assolutamente vero quello che stai dicendo, perché Antinori fa determinate pratiche, adesso non dobbiamo fare pubblicità a nessuno, ma determinate pratiche che con ma sarà favorevole, in affitto, ma sarà favorevole, non hanno nulla da... Ma sarà favorevolissimo all'utero in affitto. Vabbè, ciao Carlo, arrivederci. Cruciani, Lala, Tizzozzo. La Zanzara. Allora, c'è Don Mazzi che critica Vespa dicendo: possibile che nessuno abbia contestato in studio il padre quando ha detto che il figlio in fondo è un bravo ragazzo. Ragazzi, però, ma che cosa doveva succedere in quello studio? Hanno chiamato il padre ha detto la sua. Uno che cosa deve dire? No, ma lei è matto. Non si può dire niente in questi casi, no? Cioè, davanti a un padre attonito di fronte a quello che ha scoperto, di fronte a quello che ha saputo, deve dire... Sì, io non ho capito perché ci è andato, infatti, però è normale che abbia detto così. E io non ho capito come ha fatto ad andarci in un momento di dolore come quello, però... Oh. Ragazzi, questi qua sono semplicemente due animali, sono due bestie il cui senso del rispetto, il rispetto della vita umana è zero assoluto, si è rivelato zero, almeno in questo contesto, punto e basta. Dopodiché, certo, la cocaina, la famiglia, tutti questi ragionamenti qua, chissà che vita familiare hanno avuto, è pieno di casi esattamente opposti in cui persone seguite, persone che hanno avuto i genitori sempre dietro, magari sono andati alle migliori università, si rivelano il peggio del peggio. No, è così, dai, su. Nuccio da Roma, 800 24 00 24, vai Nuccio. Buonasera, se mi consentite vorrei ritornare sulla circoncisione. Vai volentieri, vai, andiamo sulla circoncisione. Una mia esperienza come domani grande appuntamento, ore 10, tutti sotto casa di Parenzo a Roma. No, grande manifestazione contro la circoncisione domani. Ma non c'è nessuna cosa. Darò indirizzo su Facebook. Sì, bravo, esatto. Grande manifestazione sotto, contro questa pratica vergognosa medievale. Non scherzo, naturalmente. Nuccio, vai. Allora, tu che sei a Roma, vai domani a protestare, no? Sì, bravo. Sì, certo. Anch'io, certo, in prima fila. Allora, senta, io è da 30 anni che ho avuto problemi di infezioni, irritazioni e quant'altro. Vabbè, ma che c'entra questo? Per la circoncisione. Ah, cioè tu tu ti sei circonciso a che età? Io non sono un ebreo. Vabbè, ti sei circonciso perché allora? Ma come tanti, certo. Perché? Perché per 30 anni ho avuto sempre problemi, nonostante l'igiene accurata, di irritazioni. Ah, ho capito. Per 30 anni hai avuto problemi, poi ti sei circonciso? Di conseguenza sono andato da un medico, mi ha circonciso e ho risolto i miei problemi. Ma nessuno dice nulla, ma io non ho detto. No, ma ha ragione Parenzo, bisognerebbe in molti casi passare alla circoncisione per evitare di sprecare pomate, liquidi. Sì, certo, ma questo lo dicono i medici, sa, mica lo dico io. Ho capito, chiaro, Nuccio, Nuccio, però non è che chi non lo fa è, come dice Parenzo, di conseguenza sicuramente uno zozzone. No, diciamo la verità. No, ha più problemi di pulizia, quello d'accordo, ma non mi interessa, sono fatti suoi. Ma cioè, chi ha detto che ha più problemi di pulizia? Non è vero, deve stare attento a pulirsi. E ti ho anche appunto, fatto rispondere da un medico il quale dice il contrario. Il circoncisio non ha di questi problemi. Non è vero, perché magari tende a trascurare, appunto perché pensa di essere circoncisio. Perché quello è uno zozzone di suo. Se si trascura, comunque uno si deve pulire. E poi, ragazzi miei, ognuno faccia quel che gli pare. Voi volete attribuire a cose che riguardano la religione dei motivi che non hanno nulla a che fare ma con la religione. Io non attribuisco niente a nessuno. È una questione religiosa, appunto. Io e basta. Lo faccio perché credo che sia una cosa importante per entrare. Soprattutto per religiosi. Ma senza punto. Dubbio, dopodiché basta, so amica... che c'è anche una questione sanitaria che è fondamentale. Ma dopo ognuno faccia quello che gli pare, chi se ne frega? Cioè, anzi, ma rimanete sporchi, chi se ne frega? Che, appunto, lo vedi? Io mica neanche mi tocco, ma manco con la canna da pesca. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Allora, caro Parenzo, dopo Teo Teocoli, anche famosi ambientalisti britannici vengono in mio soccorso. Oggi leggevo sul Guardian, prestigioso quotidiano britannico, sì. Il parere di un tizio, adesso non mi ricordo il nome, il quale dice che bisogna farsi la doccia una volta alla settimana. Un signor, che porcheria. Una volta a settimana. Negli anni 60 il bagno si faceva una volta alla settimana e non si lamenta che la gente andasse in giro con il naso tappato per evitare gli odori altrui. Oggi praticamente una al giorno, addirittura due. Io ricordo quasi 10 anni fa Fulco Pratesi, che all'epoca era presidente del WWF, fece un'intervista clamorosa al Corriere della Sera elencando quali erano le sue pratiche durante la giornata. Chissà se dopo 10 anni ha cambiato parere. Abbiamo Speriamo. Un numero? Abbiamo il numero dietro? Sì, perché ce lo siamo portati il numero dietro, ovviamente. Allora, fatemi sto numero, dai. Bravi. Pronto? Signor Pratesi, buonasera, qui Radio 24. Buongiorno, buonasera. Salve, buonasera. Senta, io ho letto una cosa che riguarda la giornata mondiale dell'acqua. Sì. Che è il 22, e sì. Sul Guardian, prestigioso quotidiano britannico, sì, ho letto. E c'è un signore che pare un conosciuto ambientale. Un come me, che... Io sono dalla parte sua, perché io ho detto che uno sporcaccione, sicuramente, secondo bravo, me. Bravo. Io mi faccio la doccia una volta ogni 3-4 giorni. Bravissimo. È uno schifo. Comunque fate voi. La sua giornata tipo è sempre la stessa da 10 anni a questa allora, parte? No, la mia giornata tipo è un bagno, poca acqua calda, una volta ogni 10 giorni. Ho migliorato la mia performance, consumo molto meno acqua e sto molto meglio, naturalmente, perché meno acqua, meno sapone, meno altre cose che si consumano, tanto meglio sta a noi e anche il pianeta. E lei non puzza? No, nessuno mi dice che puzzo. Ti dico, ho una vita di una moglie, ho una vita di relazione continua dappertutto. Lei lo sa che le persone che puzzano in realtà spesso non sanno di puzzare? Certo. Lo so, ma sicuramente mia moglie me lo direbbe. Ci sono tutte delle specie di credenze fatte naturalmente, impostate e spinte dall'industria, perché spingono a consumare quanto più detersivi, acqua calda e tutto. Cerchiamo di riuscire a limitare questo e saremo meglio anche noi, anche perché lavarsi tanto uno distrugge la pellicola idrolipidica che salva il corpo e la pelle. Io sono d'accordo con lei al 100%, Pratesi. Al 100%. Io voglio capire una cosa, lei le mutande ogni quante volte le cambia? Ma già ne ho 2 giorni, 4, non so, secondo anche 4 giorni possono resistere, sì, le mutande. Quanto, sì, a volte, sì, dipende da come uno si lava. Ecco, se uno si lava nei punti giusti tutte le volte che va in bagno, sì, non c'è problema. Fatto che la gente va al bagno, tira l'acqua, si pulisce con la carta e se ne va. Invece no, bisogna farsi un bel lavaggio serio. Anche con le mani, no? Lavarsi anche con le mani. Io mi lavo, mi asciugo con la carta igienica, poi lavo con le mani, certo, come si lava? No, ma sa, io ho detto con le mani, pare che ho detto chissà che cosa, è normale. Come deve fare, con i piedi, io con i piedi ci arrivo. Ma assolutamente, assolutamente. E le camicie? Le camicie mi devono mangiare 2 o 3 giorni. 2 o 3 giorni le camicie, anche quelle bianche d'estate? Quelle bianche dopo 2 giorni devo cambiarle. Anche d'estate fa la stessa cosa? D'estate sì, d'estate sì. E i calzini? Sì, mi durano anche abbastanza. Anche una settimana si possono tenere? Sì, penso di sì. Lei quando è che si lava? La sera prima di andare a letto, lei si lava? No. Mai? No. Io nemmeno, mai? No, mi lavo la mattina quando faccio la barba, al gabinetto, una volta su una al giorno, a fare, diciamo, la cacca. La mattina faccio la cacca, mi faccio la barba tutti i giorni, senza usare, dopo barba, creme e altro, faccio la barba con acqua e sapone e un pennello da barba vecchissimo che ho. E poi si lava così con le mani a pezzi, diciamo, certo, no? Con le mani a pezzi, ascelle, parti basse e piedi la sera. I deodoranti, per carità, mai finito? No, deodoranti, questi dopo barba, niente. Da 10 anni a questa parte ha solo migliorato, Sì, le mie prestazioni le ho solo migliorate, sono molto contento di questo. E se qualcuno le dice che lei è uno zozzone, uno sporcaccione? Ma nessuno me lo dice, perché devo dire, capiscono che in fondo chi vive bene, perché le persone pulite e sane non hanno bisogno di lavarsi, chi è sporco ha bisogno di lavarsi sempre. Parenzo, che dici a conclusione di questa discussione? Dico che vi siete trovati su queste porcherie e va bene, continuate così. Io continuerò a lavarmi una volta al giorno. No, anche due, tutte le mattine mi faccio la doccia. Le mutande le cambio tutti i giorni, i calzini tutti i giorni, le camicie tutti i giorni, ho un profumo gradevolissimo e disintrusivo. A me piace dire il profumo della pelle, ma quello buono, il balsamo. Viva Pratesi, arrivederci. Siete duro, arrivederci. Ciao. No, ma... Io devo dire la verità, sono d'accordo con Pratesi, ho detto viva Pratesi, dell'ambiente non me ne fotte nulla. Ma io un animale, degli animali. Io lo faccio per pigrizia, perché l'acqua addosso, troppa acqua addosso mi dà fastidio. Ma sai che è mancanza di rispetto verso gli altri. Ma chi non te l'ha lavarsi? Detto? Ma se gli altri non ti dicono niente, ma che dici? Ma non ti dicono niente perché sono educati, perché la gente è educata, difficilmente uno dice puzzi. Ma non è vero. Difficile che uno dica puzzi, io lo direi tante volte puzzi, ma sono educato e non lo faccio, ma allontano. Non dire stupidaggini. La gente è educata, bisogna avere rispetto degli altri. Ma e quindi c'entra non puzzare, rispetto degli altri? E quindi non puzzare. È una mancanza di rispetto il non lavarsi. Ma prima di se stessi, chi se ne frega, perché uno può mortificare il proprio corpo, rimanere sporco, non me ne frega niente. Ma se si relaziona con gli altri e va in un ambiente pubblico, è una mancanza di rispetto. Francesco da Bari, non dire stupidaggini, dai, forza. È così, è proprio mancanza Stefano da Roma, di rispetto delle persone. Mamma mia, così banale, dai. Forza. Però se uno Stefano puzza da Roma. Sì, Stefano. Cioè, se uno puzza perché non si lava è diverso, ma fa schifo. Io mi allontano, sono educato e non gli ma dico. Cosa scende? Ma stai dicendo delle cose banali, ma è normale, ma ci sono delle persone che non puzzano pur non lavandosi. Ma Stefano da Roma, dai. Sei circondato da persone troppo educate. Sì, vabbè, Stefano da Roma. Volevo solo dire una cosa a proposito di Taormina. La prossima volta che lo contattate, io sono curiosissimo di sapere qual è il vero assassino del bambino di Cogne, perché ce l'ha promesso tanti anni fa, più di una volta di dircelo, io sto ancora aspettando. Ma si può difendere qualcuno dicendo io so qual è il vero assassino, poi non dici niente, ma quello va radiato dall'ordine degli avvocati, ma che razza di linea difensiva è? Ma dove intervenire prima, amico mio, te lo mettevo in collegamento. Dovevo intervenire prima, ma non sei d'accordo con me, scusami. Ma non lo so, ma adesso è una vicenda complessa, vai Stefano, dimmi. Storia vecchia, ma questo già sale sul carro del prossimo vincitore, cioè... Grillo, dici, Grillo. Lasciamo perdere. Poi per quanto riguarda il discorso dell'assassino... Non esiste, secondo me, a esperienza mia, perché ho anche una certa esperienza, nessuna sostanza che può far diventare qualcuno un assassino. Se non nasci già bastardo, è vigliacco, perché questi qui il coraggio ad ammazzare qualcuno da lucidi non ce l'hanno avuto, perché quello era il piano. si sono bombardati dicendo vabbè, che volete. Sembra fare? Che sia andata così come dice, cioè il piano era quello di ammazzare così. Qualcuno, poi si sono ammazzati di droga e di alcol. Ma nessuna forse... droga fa diventare qualcuno un assassino, è possibile che nessuno... No, allenta un po', allenta un po' le, come dire... Freno, no, in realtà vuol dire che tu però quell'idea nella capoccia, ma sì, la data, certo, ce l'hai già. Ma ragazzi, ma io ho detto sin dal primo giorno, quando infatti, il padre... quando il padre ha detto spero che la colpa sia della cocaina, altrimenti è un mostro e io non lo riconosco come un mostro, e si tratta di attribuire a, evidentemente non conosce bene suo figlio, questo è il punto. Non c'è bene neanche l'effetto delle sostanze per sua fortuna, perché non c'entra proprio niente. No, c'entra nel senso che può essere, centrare invece può centrare nel senso che hai meno freni, cioè hai meno, capito? Pietro da Bologna, vai Pietro. Niente, sentivo prima l'avvocato Taormina. Sono persone che, cioè, sarebbero meglio stare zitte perché rappresentano tutti i pregiudizi e rappresentano l'arretramento culturale, no? Sull'aspetto del pregiudizio sull'omosessualità rispetto anche ai fatti delittuosi che ci sono avvenuti. Perché poi vorrei chiedere, con tutti i femminicidi che ci sono, allora la categoria degli etero, ma certo, i femminicidi, ma certo, che compiono. Allora, siccome è un avvocato, forse nella categoria, forse potrebbe essere, ci sono molti ladri, quindi uno è un avvocato, è ladro per antonomasia, quindi cioè, con i luoghi comuni, i pregiudizi, con una chiesa che porta avanti... Vabbè, ma ho capito, Pietro, ho capito. Ha detto un'evidente sciocchezza. Ciao, ciao, ciao. Crux, visto che non ti lavi mai, possiamo chiedere lo sconticino per il deretano? State ascoltando un programma offerto da... Vilo, circolatori, elettropompe e sistemi di pressurizzazione. Mostra convegno Rofiera Milano 15-18 marzo. La Zanzara. Mi scusi, posso farle qualche domanda? Come? Stiamo facendo un sondaggio sull'amore. Allora, mi permetto di chiederle, quando ha avuto l'ultimo rapporto sessuale? Ah, 3 giorni fa. Bene, e quando ne avrà un altro? Ah, appena mi passerà il bruciore di culo, eh. Ok, grazie, ciao, ciao, gentilissimo, ciao. Eh. Ma questa è una finta, ma dai. Cioè... Il WhatsApp, cioè. Ma no, non è WhatsApp, è un video che mi ha mandato uno già una settimana fa, cioè... È una barzelletta, peraltro, una barzelletta, una vecchia barzelletta. Io non la conoscevo neppure, perché sulle barzellette sono totalmente negato. Allora, Luigi da Roma, vai, 800 24 00 24. Vai, Luigi. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi, dimmi. Volevo soltanto ringraziarti perché mi dovete spiegare chi è intervenuto, cosa c'entra la cocaina, i froci, o no, i froci, scusa, i gay con questo omicidio aberrante. Chiedilo a Dinolfi, chiedilo a Taormina, chiedilo a Giovanardi. Ma certo. Ah, io ti ringrazio perché gli dai anche la possibilità a questi folli, cioè, di questi parlare. Cioè, questi qua pensano che essere gay, cioè che il fatto che questi qua fossero uno forse gay, di questi qua forse, ma poi chi se ne frega se è gay o non è gay. C'è. Si è avuto fidanzato, fidanzate, sia un elemento decisivo nella questione degli omicidi, capito? Ma roba incredibile, dai. No, ma poi io quello che volevo dire, che penso sia la cosa più importante, ma siccome la pena di morte è una cosa a cui nessuno intelligente può pensare, siccome è importante capire queste persone che cosa dovranno fare durante la loro vita dopo aver fatto questo, il carcere non servirà a nulla. Perché uno Stato, se vuole definirsi tale, non inizia a ragionare su come realmente affrontare la questione di queste persone? Quindi perché non utilizzarli per attività sociali che magari non li rimeranno dal loro... Ma che vuol dire utilizzare per attività sociali? In galera, la galera, punto e basta. Ma la galera è un posto che non serve a nessuno. Vabbè, non servirà a nessuno. In questi casi la galera, anche lunga, molto molto, esatto, lunga, secondo me l'ergastolo fino in fondo. Ma perché se facessero dei servizi alla comunità? Ma non ti preoccupare, anche che quello ci pensano. Spazzare una città come la nostra città. Ma spazzare per la città, noi possiamo lasciare gli assassini in libertà a spazzare per la città. Dai, il problema fondamentale è che non ti preoccupare, ci sono già le leggi che fra poco, fra qualche, fra una decina d'anni, 12, 13, 14 anni, autorizzeranno i signori a andare. Dipende, perché è quasi sempre così, anche per i pluriomicidi, guarda, ti posso assicurare. Anche guarda, per il i caso di Maso è uscito dopo quanto, Maso? Ad è riuscito a uscire dal carcere anche Izzo per tornare ad ammazzare. La legge italiana ha consentito a un pluriomicida come Izzo, il mostro però del Circeo, a fronte di tre casi di che si conoscono, e ce ne sono. Ma a fronte di tre casi di cui stiamo parlando, cioè Izzo, il signor Maso, ma non che ci è ritornato sono tante in clinica altre psichiatrica, tante altri casi. E un sono... altro, però ci sono tantissimi che invece hanno ritrovato un percorso. Guglielmo, Roma. Non vai. Dico normale, ma quasi. Ciao Giuseppe. Vai, dimmi. Senti, io sono allucinato da questo omicidio. Faccio questa premessa. Vabbè, per quello tutti, che dirò dopo. Quello tutti, dai. Per quello che dirò dopo, perché io non riesco veramente a capire come la gente riesca a dare la colpa allo Stato, all'omosessualità, cose che non c'entrano, con la famiglia che è la prima vittima di tutta questa storia. Te lo dico io, perché? Perché la gente sbrocca, la gente sbrocca in questo mondo, e sbrocca per un motivo molto semplice, che è la noia. Anche, i giovani, anche. No, i giovani e non giovani, dai. Quando tu vuoi provare a vedere come sembra che abbiano detto questi qua, fino a dove si può arrivare, quando tu pianifichi, come sembra naturalmente, la morte di qualcuno chiamando prima tante persone e finalmente trovando la persona giusta, perché questo esce fuori dai verbali, dalle confessioni, questa roba qui, ragazzi, è imprevedibile. Anche il genitore più attento non la può prevedere, quello che hai dentro il cervello, quel tarlo che c'hai dentro il cervello, che a un certo punto ti esce fuori. Sì, la noia sicuramente c'è come componente, però anche io, per esempio, ogni tanto mi annoio, però non è che mi viene in mente ad ammazzare qualcuno. Guglielmo, organizzavo serate a Roma, quindi conosco un po' l'ambiente, conoscevi questo tizio, questo Prato? No, non lo conoscevo personalmente per vie traverse, ma comunque indipendentemente da questo, perché poi Roma è una città. Sì, ma non è che tutti quelli che organizzano le feste a Roma sono dei matti scriteriati che poi ammazzano le persone. Guarda, stai parlando con una persona che a oggi è uscita due anni fa da quel mondo, sono manager di una multinazionale, cioè, quindi da quel punto di vista non sono un drogato, però ti posso dire una cosa, che nel momento in cui io organizzavo delle serate anche un pochino particolari, ho visto persone. Cosa vuol dire particolari? Assolutamente normali. Particolari che vuol dire? Particolari vuol dire serate, diciamo, dark fetish, ecco. Vabbè, mettiamola da questo punto di vista. Ho visto persone assolutamente normali, a parte nei comportamenti fare delle cose che nella vita normale non ti sogneresti mai, ma nel momento in cui tu a fine serata, su una serata di 300 persone, ti rendi conto che hai venduto 150 drink e hai venduto un bancale di bottigliette d'acqua. E allora? C'è qualcosa che non va, cioè? C'è qualcosa che non va, perché tu dici, vabbè, i giovani d'oggi non bevono acqua. No, perché l'acqua è l'elemento principale per poter diluire una serie di sostanze. Vabbè, ma questo che vuol dire con questo? Ah, per fare tanta pipì e quindi smaltire meglio le... Quello che voglio dire è che all'interno di un circuito di normalità, la gente che si annoia vuole per forza sperimentare. Sperimenta oggi, ho capito, ma... sperimenta domani. Ma non è vero, di questo... Sì, ma questo anche è il discorso dell'omosessualità, secondo me, in questo caso, perché mi ci gioco. Ma che c'entra con l'omicidio? Ti dico, perché questi ragazzi, secondo me, si sono spinti molto, per molto, noia. Molto oltre la loro voglia di sperimentare e trasgredire. Questo... Tant'è che, secondo me, una persona che ha premeditato un omicidio del genere, dopo non è che si ammazza. Pulisco ben bene le prove e ciao, ricomincio a vivere. Invece il pentimento, il rimorso, quello che può essere successo, secondo me la prova evidente è che questi sono ritornati nelle loro facoltà mentali e hanno capito, cazzo, stavolta siamo andati oltre. Siamo fottuti. Siamo andati oltre. Guglielmo, ciao. Allora ragazzi, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, c'è un movimento che si chiama Purex, che è un movimento... in cui si vuole sostanzialmente che cosa? Che le persone arrivino vergini al matrimonio, impiantare la cultura della purezza nella relazione, nella sessualità. Uno dei protagonisti si chiama Spezzacatena, Stefania Spezzacatena e Giuseppe Punto. che sono marito e moglie. Ciao, ciao a tutti e due. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao. Eccola. Allora Stefania, io non ho capito, voi, tu per esempio, sei arrivata vergine al matrimonio con Giuseppe? Allora, Purex non è un movimento nella quale le persone devono arrivare vergini. È un movimento nella quale le persone devono aver fatto un patto, una scelta di purezza. Quindi anche nel caso in cui, per esempio, si è persa la verginità, semplicemente si decide di fare una scelta da quel momento in poi. Ah, da quel momento. E comunque l'obiettivo sì, è di arrivare vergini al matrimonio. Vergini... Beh, se hai già avuto rapporto... Vabbè, se hai già avuto rapporto non sei vergine. Però l'obiettivo è non avere rapporto. Ma perché è meglio, secondo te, poi lo chiedo anche a Giuseppe, perché è meglio secondo te arrivare vergine al matrimonio? Spiegamelo. Allora, per me non è... A parte che già secondo me sposarsi siamo... Però questa è una mia opinione, naturalmente, però... Stefania, ma come, il matrimonio è bellissimo. Il matrimonio è una prigione pazzesca ed è la, disastro della società. Comunque, lasciamo perdere. Allora, Stefania, tu perché bisogna arrivare vergini? Allora, dobbiamo partire da un presupposto fondamentale senza la quale non potrei parlarvi. Noi vi parliamo di questo perché abbiamo fatto un'esperienza con Gesù che ci ha totalmente stravolto la vita. In funzione di questo vogliamo fare tutto quello che a lui piace e che ci insegna nel piccolo manuale che ci ha lasciato. Cioè è una questione di Gesù religione? Gesù ha lasciato un manuale? È una questione di fede, è una questione di amare così profondamente Dio che decidiamo di fare delle cose che piacciono a Lui. Quindi se mi chiedi cosa c'è di bello, ti posso dire una marea di motivi, come per esempio farlo con la persona che ami, che sarà l'unica che conoscerà il tuo corpo. Te ne posso elencare tanti. Ma scusa, le persone che ho letto che ci sono delle persone che hanno addirittura 29-30 anni che ancora sono vergini? E se sono vergini, questo non te lo so dire perché chiaramente... No, Giuseppe sta dicendo anche... Esiste, beh certo, non è che controllate con i chirurghi, d'accordo? Ci sono alcuni ragazzi, abbiamo sposato sicuramente anche delle persone, dei ragazzi che sono arrivati vergini, uno dei miei amici che è arrivato vergine a 30 anni fino al matrimonio. Scusa, avete sposato così? Perché voi sposate, Giuseppe? Noi sposiamo, sì, siamo dei pastori. Pastori sì, protestanti. Ah, siete pastori protestanti e sposate, ho capito. Sì, sì, sì, sì. Ma io non ho capito... Secondo te, Giuseppe, è veramente normale arrivare a 30 anni, a 31 anni senza avere fatto sesso? Non lo so, mi sembra una cosa da capire. Ti faccio una domanda: che cos'è la normalità? Ma no, vabbè, ma no, normali. Io penso che se tu a 30 anni non hai conosciuto. Ma infatti fa molto strano, cioè dire arrivare i vergini fino al matrimonio è una cosa stranissima. Ma è una cosa, hai qualcosa che non va, secondo me, nel cervello quando tu non arrivi. Ma per questo è qualcosa di più alto. Noi non lo facciamo per non fare sesso prima del matrimonio, perché poi non è. E per non fare cosa? Limitato solo a questo. Il discorso è che quello che ci spinge è il nostro amore verso Dio, perché altrimenti che senso ha? No, ma questo tu riesci ad arrivare a questo quando sei spinto da un amore più grande e quando Dio ha cambiato la tua vita, se no che senso ha? Nessuno. Sì, ma ho capito, ma perché uno deve in qualche modo trattenersi fino al matrimonio? Non riesco a capire, in virtù di che cosa? Perché in virtù della fede, lui dice, perché però... ce lo dice Dio, perché ce lo dice non lo capisco. Sì, allora, sai cos'è, Giuseppe? Perché io penso che quello che noi predichiamo è veramente follia se non si ha conosciuto prima Dio, perché la profondità di cui ti parliamo è dettata da quando tu ami profondamente. Penso che avrai amato mai nella tua vita profondamente qualcuno. Vuoi fare tutto quello che piace a quella persona. Innanzitutto ci voglio scopare, adesso per dirtelo in maniera così molto... Vabbè, amore non è solo quello. No, ma per esempio quello però è fondamentale. Ma sì, certo, assolutamente. E lei dice quando uno ama molto fa qualunque cosa per questa persona. Quindi esatto, questo è quindi mi rendo conto che può suonare follia oggi e sappiamo che è follia, ma siamo anche felici di andare controcorrente, sappiamo bene cosa è successo. Ma quanti siete adesso lì nell'associazione? Giuseppe, quanti siete? Sì, scusami, non ho quanti sentito. Siete? Quanti siamo? Nell'associazione, nel vostro gruppo? Quante persone avete riunito? Ma guarda, noi facciamo, giriamo un po' l'Italia, sono migliaia di ragazzi, però non è un... C'è di lavoro, lo fate ormai? No, è una specie di setta, una specie di setta. Siamo più di sette. No, ma è una setta. Ma quale setta? Ma come no? Scusa, ma la masturbazione e il sesso orale sono consentiti prima del matrimonio? No. Ma non c'è il... il libricino che ti dice. No, ma te lo sto chiedendo, sono curioso. Sono curioso. Il sesso orale e la masturbazione sono consentiti prima del matrimonio? Il manuale del fai da te non c'è. Vai, risponde Stefania, dai. Allora, la masturbazione e il sesso orale sono consentiti o no? Allora, ti dicevo, il manuale del fai da te. Allora, la masturbazione, allora dobbiamo partire dal presupposto che come viviamo noi la sessualità, quindi all'interno del matrimonio, così come l'ha creata Dio, l'ha creato come un atto altruistico, ok? Quindi per far piacere l'altro. Ma si può fare o no? Ma ho capito, ma si può fare o no, secondo te? Fammici arrivare. No, perché devo chiudere. Non dovete pensare che noi demonizziamo il sesso, anzi, per noi è qualcosa di bello, meraviglioso. Allora? Che ha creato Dio, ma l'ha creato per far piacere all'altra persona. Vabbè, d'accordo, ma questo qua va benissimo. Ma si può fare o non si può fare nella vostra filosofia? No, mi dispiace per te, ma no. Non si può fare. È un atto egoistico, quindi. Ah, la masturbazione rientra. È un atto egoistico e non rientra. Vabbè. Invece il sesso orale? Ma neanche. No. Il sesso orale assolutamente rientra comunque nel. Si può fare, questo si può fare. No. Nemmeno quello. Ah, perché c'è solo uno soddisfatto. E la sodomizzazione? No, nessuna sodomizzazione, nessuna neanche sfumatura di grigio. C'è nessuna sodomia, manco la sodomia si può fare. No, guarda, no, sesso anale no, ma niente prima del matrimonio. Assolutamente no. Assolutamente ma ragazzi, no. Dai su, vi saluto, ciao, ciao. Ciao. Andate a fanculo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.